La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. Torniamo subito a parlare del Movimento 5 Stelle, perché oggi la notizia è che ci sono due deputati che lasciano il gruppo ed entrano in quello misto. Sono due deputati tarantini, Vincenza Labriola e Alessandro Furnari. Subito dopo questa notizia Beppe Grillo ha iniziato un attacco contro il Parlamento, definito una scatola di tonno vuota: o lo seppelliamo o lo rifondiamo. Non serve a nulla, spossessato del suo ruolo di voce dei cittadini, potrebbe chiudere domani, simulacro, tomba maleodorante della Seconda Repubblica. Queste le parole di Beppe Grillo, parole molto gravi, perché ricordiamo quando è stato chiuso il Parlamento in Italia non è stato un bel periodo, nel 1924. Ma vi chiediamo subito il vostro parere con i vostri sms 349-238-6666. E intanto noi, per capire veramente che cosa sia successo, siamo andati a intervistare Riccardo Nuti, capogruppo alla Camera 5 Stelle, proprio sulla fuoriuscita di Labriola e Furnari. Sentiamo cosa ci ha detto. No, semplicemente noi auguriamo buon lavoro a Labriola e a Furnari, sperando che possano affrontare al meglio gli impegni che hanno nel gruppo misto. E guarda caso sono quelli che hanno, fra coloro che hanno palesato la propria non disponibilità o più che altro la loro discussione su quello che era la restituzione della parte eccedente a quello che non veniva speso. Cioè sulla diaria, loro non volevano... Diarie, sì, su tutte quelle voci. Cioè, sono fra quelli che hanno, diciamo, palesato questa mancanza di volontà di restituire la parte eccedente nelle scorse settimane. Dal punto di vista poi dell'aspetto... dell'ILVA, che è quello che loro palesano, anche lì loro non hanno mai fatto né una proposta di legge né hanno proposto una loro soluzione all'assemblea per valutarla, per così via. Quindi poi questo impegno sull'ILVA se lo sono gestiti gli altri colleghi pugliesi, sempre del Movimento 5 Stelle. Quindi non era uno scontro ai massimi livelli tra la decrescita felice, lo sviluppo sostenibile, era una questione di scontrini e di soldi da ridare? Sì, più che altro finora questo. Poi, per carità, noi potevamo pure parlare dell'ILVA e così via, ma se loro non hanno fatto nessuna proposta e questo compito se lo sono presi gli altri colleghi pugliesi invece che loro che sono proprio tarantini. No, non c'è un po' d'amarezza questa democrazia sul web? Queste candidature alla fine però portano in Parlamento anche gente che all'interno del movimento non era conosciuta. Ma i parlamentari che non vogliono lavorare possono venire sia dal web, sia dal circolo, sia da qualunque partito politico. Non è che dipende dal web o dal circolo politico del territorio e così via, non cambia niente. Purtroppo, lei non si sente un po' sconfitto oggi? No, anzi, assolutamente. Anzi, noi dobbiamo dimostrare che nel Movimento 5 Stelle possono restare tutte le persone che vogliono lavorare e che vogliono rispettare quello che hanno accettato come codice di comportamento. Insomma, erano due lavativi, secondo lei? Beh, per quello che hanno fatto finora sì, però ci auguriamo che al gruppo misto magari trovino uno sprint per dare di più. E abbiamo sentito Riccardo Nuti, capogruppo alla Camera 5 Stelle, sui fuoriusciti Labriola e Furnari. Ricordiamo il numero dei nostri sms 349-238-6666 e dobbiamo anche dare spazio ai due fuoriusciti, perché sia Furnari e Labriola spiegano in una lettera: Grillo ha spezzato un sogno, no è scelte dall'alto, specie sull'ILVA. Il movimento era un sogno, ora è tutt'altro, dicono. Io e la mia collega Vincenza Labriola, pur rimanendo fedele alle idee fondanti del nostro movimento, abbiamo deciso di lasciare l'istituzione Movimento 5 Stelle. Siamo i primi liberi cittadini a compiere questo passo. Tra le cause, la questione ILVA e i drammi che coinvolgono la nostra terra, Taranto. Queste le motivazioni ufficiali. Ma cosa ne pensano gli altri partiti? Questo blocco monolitico, sembra il Movimento 5 Stelle che si sta spaccando. Di questo e anche di quello che però succede nel Partito Democratico l'abbiamo chiesto un parere a Renziano Paolo Gentiloni. Ma adesso purtroppo questa abitudine di offendere quelli che lasciano i partiti non è nuova e non è per la prima volta che viene praticata. Io penso che ci siano problemi politici e che nasconderli sia un errore. Quindi lei pensa che Furnari e Labriola se ne siano andati non per una storia di scontrini, ma per una storia magari di ILVA, come sostengono loro? Ma io non conosco il caso dei due parlamentari di Taranto. Dico che chiudere gli occhi quando ci sono problemi politici è un errore. Troppa poca democrazia nel Movimento 5 Stelle? Beh, molto liderismo, non c'è dubbio. Altro argomento invece è che cosa farà Matteo Renzi, perché lei da renziano non abbiamo capito, vuole essere Presidente del Consiglio, vuole essere segretario, che fine farà Letta, il partito si rispacca stavolta non tra Bersani e Renzi ma tra Renzi e Letta? Ma Renzi mi sembra che si sia comportato in questi mesi in modo esemplare, si occupa dei problemi del Paese, in queste settimane è stato forse tra i leader del PD quello più presente nelle partite dei ballottaggi a Roma e anche nelle altre città, fa il sindaco di Firenze. Poi in autunno avremo il congresso del PD e deciderà cosa fare. Ma mancano molti mesi, non possiamo passare l'estate a chiederci cosa fare Renzi perché diventa ozioso. È un po' tipico del PD, no? Lacerarsi. No, ma lui non si lacera per niente, mi pare che stia girando l'Italia sostenendo i candidati del PD ai ballottaggi e speriamo che vadano tutti bene. Che consiglio darebbe come ex ministro delle telecomunicazioni a Roberto Fico del Movimento 5 Stelle che è diventato presidente della Commissione Vigilanza RAI? Beh, non scambiare la vigilanza per la RAI, perché la RAI ha tutta la sua autonomia e la Commissione non è un organo per intromettersi nell'azienda televisiva, ma per dargli alcuni fondamentali indirizzi. Altrimenti finisce per essere un rimedio peggiore del male la commissione di vigilanza. E questo era Paolo Gentiloni su quello che sta succedendo anche nel Partito Democratico. È bypassato un po', no? Io parlavo del Partito Democratico che si lacera. Allora, altra polemica invece riguarda questa volta il PDL, ovvero le parole di Silvio Berlusconi che ieri incitava il premier Enrico Letta ad un braccio di ferro con la cancelliera tedesca Angela Merkel per rimettere in moto l'economia italiana. Basta questo rigore, insomma, questa è sempre stata la tesi del PDL, altrimenti, ha detto un po' velatamente Berlusconi, meglio dare l'addio all'euro, ma parole che in realtà dicono dal PDL sono state assolutamente fraintese. Allora sentiamo a questo proposito il vice premier Angelino Alfano. Questo evidenzia la grande malafede di chi interpreta le parole di Berlusconi. La malafede consiste in questo: se lui parla delle sentenze è in errore perché antepone i propri interessi a quelli del governo. Se non parla delle vicende processuali e parla invece degli interessi dell'Italia, parla degli interessi dell'Italia per sviare l'attenzione. Se non... E questo era il vice premier Angelino Alfano. Ricordiamo in apertura la fuoriuscita di due grillini e le parole molto gravi di Beppe Grillo: il Parlamento è una scatola di tonno vuota, maloderante della Seconda Repubblica. Un saluto da Elisabetta Fiorito.